La mia gente vuole un po' di realtà, vuole potersi esprimere secondo, non so, i propri, le proprie necessità. Come together and live together, black and white together, harmony together. Am I dreaming? No, that's the way we should be. Should be done, it should be said, it should be written, so the people tell your friend. Yeah, open up your heart, open up your mind, so the people's happy, flip the things from the mic. Becky Serva, how you living? Peace and rights and whatever. You consciously you're doing. Your actions is your action. So remember that. This is one man, one man's land. We are all one man. The man is always the man, remember that. La prigione è riconfigurata come insieme di relazioni basate sul potere. Lo spazio carcerario si presenta composto dalle relazioni sociali e dalle pratiche geografiche che lo Stato utilizza per contenere, dislocare e deprivare dei propri beni le persone svantaggiate. A favore del capitalismo razziale, un termine che riconosce come il sistema abbia bisogno della disuguaglianza per funzionare e come abbia sempre fatto affidamento su categorie razziali per implicare che tale disuguaglianza sia naturale piuttosto che un prodotto. Who cared about the community. Razzializzata è la stessa idea di detenuto, soprattutto se partiva già da una condizione di svantaggio economico, non può che risultarne marchiato. Queste le parole di una ricercatrice documentarista, Brad Story, che ha pubblicato l'anno scorso per l'Università di Minneapolis, manco farla apposta perché l'avevo già recuperata la sua ricerca, Prison Land, Mapping Carceral Power Across Neoliberal America. Mi interessava il fatto che non fosse una qualsiasi accademica, ma che abbia vissuto sulla sua pelle, sia in Canada che negli States, la mano autoritaria della gentrificazione. Si ritrovò in carcere da bambina a seguito di uno sfratto e di nuovo da adulta per lo stesso motivo. Brad Story, con un capitolo in particolare su Brooklyn, individua poi come ancora oggi le leggi contro il vagabondaggio, la teoria delle broken windows degli anni 80 vengono strumentalizzate nel processo di svalutazione degli immobili per poi convertirli in nuove realtà commerciali o smart. Le stesse pratiche di sorveglianza sempre più tecnologiche rinforzano il rapporto sinergico tra le forze dell'ordine e il capitalismo, una continuità che, come abbiamo visto, è sempre esistita, che è nata nel momento in cui criminale era ciò che metteva a rischio il principio di proprietà ed il profitto su quella. Ancora oggi giornalisti e specialisti del settore urbanistico non hanno rinunciato a quella narrazione che descrive gli abitanti dei quartieri popolari come selvaggi, allo stesso tempo sorvolando sul forte dispiegamento poliziesco che reprime ancora in modo mirato minoranze etniche e lower class. Un altro odierno strumento retorico, ampiamente dispiegato anche qui, è l'associazione tra le pratiche di polizia e il senso comunitario, per cui i metodi di controllo vengono spogliati della loro significazione oppressiva, in modo da poter diffondere tali misure entro le pratiche comunitarie. Quello che è avvenuto per il controllo di vicinato, le ronde di quartiere, l'invito alla delazione durante lo stesso periodo di pandemia e per ogni questione che riguardi la legalità, comportando un'infiltrazione di pratiche repressive e un'infiltrazione delle istituzioni nelle dinamiche di comunità. La qualificazione della cittadinanza sulla base del rispetto di norme securitarie via via imposte rientra in un quadro più complesso di governance che ha le sue basi nel rapporto tra l'intervento dello Stato nel sociale in forma di welfare piuttosto che servizi erogati e una limitazione delle libertà che è lungi dall'essere frutto di un confronto culturale rispetto ai codici comportamentali che possono risultare via via acquisiti dalla cittadinanza, per quanto rese assimilabili da questa nel darsi una forma di diritto e una apparente scientificità giudiziaria, rimangono strutturalmente necessarie alle esigenze di sviluppo economico, come ho già fatto cenno in precedenza. Quindi, per allargare il quadro di quel rapporto tra previdenza e sistema carcerario, che come abbiamo visto è stato impostato sul modello di Auburn, lo stato di New York, piuttosto che su quello della Pennsylvania, di Philadelphia, con una sperimentazione dello sfruttamento lavorativo dei detenuti e delle detenute, che anticipava l'idea di un sistema a catena di montaggio e di quella particolare alienazione attraverso l'imposizione del silenzio e di altre rigidità disciplinari. E non è certo un caso che questo sia avvenuto in un'area che iniziava a puntare sull'industria manifatturiera, dando l'avvio a un fenomeno metropolitano e a un tipo di governance che purtroppo ebbe influenza in altri paesi marcatamente liberal democratici e per la quale si sono succedute nella costruzione del welfare, appunto dopo la dismissione delle case di lavoro, ma andando a dipendere sempre più dalle manovre di investimento dell'impresa edilizia e nei momenti di crisi dall'intervento speculativo del rilascio di crediti bancari alle municipalità. I was a moral little asshole, hardworking schoolgirl. I figure in a factory gotta earn my dough. But no, it ain't like that in a factory, see. You do your piecework and you do it slow. Lord Boss comes up to me and he says, hey, Smith, you're screwing up the quota. Now you get off your Mustang, Sally. You ain't going nowhere. You ain't going nowhere. Nel quartiere di Manhattan, lungo l'Harlem River, una delle aree più degradate della città, sorsero i primi progetti di edilizia residenziale destinati alle classi più abbienti a seguito del crollo di Wall Street, Housing Act del 1937, sperimentando una collaborazione tra capitale pubblico e privato. Gli anni 50 furono densi di progetti di rinnovo urbano, nell'intento di dirottare nuovamente il ceto borghese verso il centro città. Nel frattempo, nel Central Business District, nessuna impresa si fece mancare il proprio grattacielo, tra i quali i principali l'Empire State Building e il World Trade Center, che rimasero vuoti per anni. Dagli studi pilota degli anni 20 sul territorio e del suo sviluppo, il piano regionale si preparava al superamento del raddoppio demografico previsto nei 40 anni a venire. L'obiettivo crescita viene affrontato isolatamente dal contesto. Si tende cioè a dimostrare la materiale possibilità di investimenti edilizi senza rivolgersi ai veri problemi della concentrazione urbana e del suo dirottarsi verso un centro cittadino su modello europeo. Il rapporto con il resto del tessuto urbano non era preso in considerazione, tantomeno l'accessibilità di chi abitava le periferie ai principali servizi lanciati. sarebbe la rottura del rapporto di funzionalità tra masse immigrate e forze produttive e un progressivo degenerare delle strutture sociali che ne deriva, elemento chiave della crisi attuale. Attraverso la pianificazione urbanistica comunale si lanciavano progetti per il mantenimento del target borghese dei sobborghi, così evitando la promiscuità razziale nelle scuole, negli ospedali e nei servizi pubblici. Davidoff portò all'attenzione giudiziaria la violazione dei diritti costituzionali perpetrata da questa esclusionary zoning, zone di esclusione sociale. Gli immigrati europei risaccavano come riserve operaie, manodopera qualificata. Ma fu con le migrazioni interne che prese piede la ghettizzazione, anche razziale, delle aree urbane. Nel secondo dopoguerra, che fu un momento di declino industriale, si intensificò l'insediamento degli afroamericani e di portoricani. Il valore di mercato degli immobili decrebbe velocemente, perciò i proprietari, mantenendo tuttavia affitti elevati, non avevano alcun interesse per una manutenzione delle loro proprietà. Raggiunta una certa soglia di degrado secondo standard di igiene e sicurezza, la casa viene dichiarata inabitabile, ma la demolizione richiede lunghe procedure. Il governo, finché il settore edilizio rimase impegnato nella creazione di nuovi quartieri, era intimato a non intervenire. Dopo la crisi di Wall Street, invertì la marcia, affidandosi ai finanziamenti federali fino al 90% delle spese per la demolizione degli slum e la costruzione di edilizia popolare. La redistribuzione della densità dei residenti operata attraverso il public housing e l'urban renewal, l'edilizia pubblica e il rinnovamento urbano risultarono molto sgraditi alla loro utenza. Gli stessi sociologi evidenziano come gli effetti di queste misure abitative abbiano comportato ancor più disgregazione nella già dilagante instabilità sociale. Gli errori furono da attribuire a vari fattori che rispecchiavano una concezione punitiva dell'assistenza sociale, alimentata da giudizio sulla povertà come di una colpa speciale. Le contraddizioni principali furono queste: l'esclusione degli inquilini, qualora le loro condizioni economiche migliorassero, ovvero venivano rispediti negli slum. Questo accadeva perché i canoni d'affitto stabiliti in proporzione al reddito non potevano superare una certa soglia, inferiore del 20% al prezzo di mercato. Un'altra contraddizione erano gli errori urbanistici e architettonici. L'estensione verticale, come il complesso di 33 edifici torre di 15 piani per 12.000 persone, per poi lasciare intorno ad essa spazi privi di servizi, semidesertici, non è congeniale a soddisfare esigenze familiari e favorire l'integrazione sociale, tant'è che venne coniato il motto No High Rise for Low Income. Il tentativo di public housing fu demolito nel 1974. Avendo compreso la fatalità di questo tipo di intervento di ammassamento, la Local Housing Authority si impegnò coi singoli costruttori ad acquistare immobili appena terminati, adottando il metodo denominato turnkey, fino al rent subsidy, quindi una rotazione fino al sussidio per l'affitto, sancito dall'Housing Act del 1974. L'amministrazione pubblica avrebbe coperto la differenza tra prezzo di mercato ed affitto sociale, che era però fissato al 25% del salario. Rispetto al problema edilizio, invece, dal 48 le imprese si slegarono da qualsiasi obbligo di intervento nel sociale, per cui il capitale privato, profittando degli oneri di cui l'ente pubblico si incaricava, dalle forniture alla gestione degli affitti, mise in cantiere numerose opere di prestigio per la città ed infrastrutturali. Mentre sugli slum, rasi al suolo, non venne costruito alcunché, comportando soltanto la disgregazione delle comunità più povere e il loro dislocamento in alloggi per loro troppo costosi. Spesso, anzi, questo piano di rinnovamento fu sfruttato proprio per allontanare gli afroamericani da settori urbani economicamente appetibili. Negro removal, rimozione dei negri. Negli anni 60, quando l'immigrazione massiccia e la situazione di affollamento e di povertà nei ghetti diventa drammatica, l'unica risposta dei pubblici poteri sono infatti gli sfratti brutali dell'urban renewal, il rinnovamento urbano. La sinistra americana, polarizzata per lunghi anni sull'affermazione dei diritti civili, prende coscienza della gravità dei problemi che la realtà sociale del paese produce. Paradossalmente, è da questa che muovono i primi movimenti di resistenza e di lotta urbana, come l'Advocacy Planning, fondato da Davidoff nel 1963. Fonde le lotte alle nozioni specialistiche per il miglioramento economico della comunità. Sapere è potere, manifestando in piazza contro una cattiva gestione in termini di polizia e di immondizia e proponendo un'alternativa al sistema scolastico, educazione permanente per giovani adulti, scuola aperta e dedicata anche al confronto psicologico e politico, a progetti di assistenza a anziani e bambini, cooperazione per il risanamento delle case. Spiccano tra gli altri movimenti ARCH e RGS, rispettivamente degli afroamericani e dei portoricani, entrambi ad Harlem, ma ne sorgono in ogni parte di New York. Back and serve how you living. Peace and rights and whatever. Be conscious in your doing. Your actions is your action. So remember that. This is one man, one man's land. We are all one man. Questa seconda parte è più legata appunto ai complessi architettonici che tentavano di spazzare via i ghetti. Tutto quello che avviene nelle grandi province in Italia non ha veramente nulla di nuovo. Difficile non ammettere come le domande sollevate da quel movimento contro la gentrificazione e la pianificazione di matrice autoritaria siano centrali ancora oggi. La definizione di un problema determina l'universo delle sue possibili soluzioni. Quando i problemi che affrontano i quartieri urbani sono definiti da esperti che non vivono nel quartiere, sembrano molto diversi da quando sono definiti da coloro che vivono nella comunità e lottano ogni giorno entro quei problemi urbani. Quindi, come le comunità hanno affermato la necessità di posti di lavoro migliori, la fine della brutalità della polizia, alloggi e scuole accessibili, la politica si è concentrata al contrario sulla repressione e sull'introduzione di nuovi sviluppi per attrarre nuovi investitori. Il Model Cities fu abolito ufficialmente dal Congresso nel 1974, con l'elezione di Kerry, primo governatore democratico di New York. Il programma fu liquidato frettolosamente come un fallimento sulla base di uno standard di aspettative impossibili da raggiungere in così pochi anni. Considerarlo dispendioso non fu solo ingiusto, ma anche disonesto. E non è men vero che lasciare alle minoranze e alle classi inferiori la gestione delle proprie aree faceva politicamente paura a molti. Le numerose rimostranze contro Nixon e la guerra in Vietnam avevano portato alla luce la corruttibilità dei ruoli di potere e del nuovo paradigma costituzionale. Le pantere nere erano decise a porre fine alle discriminazioni razziali che continuavano a predominare negli stati federali e la risposta alle proteste della minoranza afroamericana in quegli anni era rappresentata dal contingentamento di forze militari e dal coprifuoco. Così non si può dire che il tentativo dell'advocacy planning e di una gestione quanto più partecipativa e comunitaria dei quartieri fosse stata abbandonata soltanto per il problema del suo finanziamento. Piuttosto, il vizio insito nel sistema dei prestiti pubblici era farlo rientrare nella logica strettamente capitalistica che aveva prodotto determinate problematiche urbane. Quindi ogni esenzione delle imposte sugli appalti municipali per progetti locali, costituendo per il mercato un alto fattore di rischio, venne gestito da Kerry dal 74 in poi tramite crediti bancari. Strict immigration will solve these countries' problems. The refugees are only our leaders' scapegoats. All'assassinio di Martin Luther King il 4 aprile del 68 seguirono moti di rivolta in tutti gli States, una mobilitazione diffusa che prese il nome di Holy Week Uprising, che si espresse in saccheggi ed incendi contro le principali imprese del business nei blocchi afro. Soltanto 3 anni dopo l'assassinio di George Jackson, mentre tentava la propria e l'evasione di altri reclusi dalla prigione di San Quintino nella California, e la solidarietà portata nelle carceri dalla Fratellanza Nera furono altri episodi di rinnovate vessazioni. America, land of the free, free to the power of the people in uniform. Dal blog di Salvatore Ricciardi contro Maelstrom riporto una breve descrizione di quali fossero le condizioni che spinsero alla rivolta nella prigione di Attica, penitenziario a nord-est dello stato di New York, in cui gli afroamericani costituivano il 50% dei detenuti. Era concesso un rotolo di carta igienica per persona al mese, una doccia a settimana. Ai musulmani non era permessa alcuna cerimonia religiosa, tantomeno riunioni sopra le 2 persone, pena l'isolamento totale. Nella biblioteca non c'erano giornali locali e ai prigionieri che si erano abbonati ad alcuni quotidiani le guardie strappavano le informazioni che riguardassero i diritti e le lotte esterne o in riferimento alle carceri. Not only do prisoners have time to read and study revolution, they also have time to organize and fashion the instruments of guerrilla warfare, the bomb, the knife and the gun. I prigionieri di Attica nell'estate del 1971 avevano semplicemente chiesto di far valere le garanzie riconosciute loro dai tribunali, ma che venivano pedissequamente negate dalle guardie. E successivamente, nell'agosto, iniziarono un digiuno silenzioso in memoria di George Jackson. Il ballottaggio elettorale tra Rockefeller e Nixon comportava il primo a non manifestare alcun dialogo né grazia verso i detenuti ed anzi, dopo la sua elezione, andò a rendere più dure le leggi sulle droghe. Verso l'autunno non avevano ricevuto ancora nessuna risposta dall'amministrazione. Una mattina i prigionieri del blocco A riuscirono a riversarsi nei cortili eludendo i meccanismi di chiusura dei cancelli. Occuparono la chiesa e le officine catturando 38 ostaggi, tra guardie e personale penitenziario. Gli stessi musulmani si preoccuparono che non venissero torturati. Nei 4 giorni di rivolta vennero scelti dei delegati per trattare su alcuni punti che ritenevano cruciali rispetto alle condizioni di detenzione, tra i quali la richiesta di amnistia. L'occupazione di Attica venne sedata con l'assassinio di 20 prigionieri ed il ferimento di almeno un centinaio. Arrivarono con l'elicottero, procedettero ad una sparatoria, colpendo gli arresi con manganelli, catene, punteruoli, impedendo poi l'intervento dei medici, lasciando che molti morissero dissanguati. Le videoriprese di servizio furono censurate, mentre la stampa diffuse che gli ostaggi morti erano stati uccisi dai detenuti, con una narrazione poi completamente smentita sul taglio di gole e genitali e l'utilizzo da parte dei detenuti di pistole rudimentali contro i loro ostaggi. I testimoni che lasciarono trapelare la verità trovarono non pochi impedimenti alla libera circolazione nel paese. Le forze armate erano coese nel non assumersi la responsabilità dell'accaduto. People are not expendable. Government is. Why not escape the fact that the SDM was great to steal? Drinking in the grits, we're crossing the line. Blood and force like it's lost in mind. Practice in this shit, we're all the same. The human's legal, the government's claim. Seguirono processi assurdi e lo stesso Kerry concesse l'amnistia ai prigionieri che avevano ammesso la propria colpevolezza, ma revocò anche qualsiasi tipo di pena pendente o sanzione disciplinare per le guardie di polizia coinvolte, le stesse che avevano torturato successivamente al ripristino dell'ordine nel carcere di Attica i detenuti sopravvissuti. People are not expendable, government is! You will not be able to stay home, brother. You will not not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Sono stato catturato e portato in prigione a 18 anni perché non potevo adeguarmi. Mi identificano come brigante, ladruncolo, giocatore d'azzardo, rapinatore, vagabondo, tossicodipendente, uomo armato, artista della fuga, comunista, rivoluzionario e assassino. Sono nato mentre la Grande Depressione stava finendo perché dopo la Seconda Grande Guerra i mercati coloniali stavano iniziando a dare i loro frutti negli Stati Uniti. Accusato di aver derubato una settantina di dollari a una stazione di benzina, ho accettato di confessare e risparmiare le spese del tribunale della contea in cambio di un alleggerimento della pena. Ho confessato, ma mi hanno gettato nel penitenziario, rinnovando di anno in anno la mia condanna. Era 1960, sono sempre stato qui. Sono nato in condizioni che comportano ad accettare l'inevitabilità della prigione. Per la maggior parte di noi appare semplicemente come una fase successiva di una sequenza di umiliazioni. Essere nato schiavo in una società prigioniera e non sperimentare mai alcuna base oggettiva per l'emancipazione ha avuto l'effetto di prepararmi alle disgrazie progressivamente traumatiche che portano così tanti neri dietro le sbarre. Ero preparato per la prigione, mi ha richiesto soltanto piccoli adattamenti psicologici. Per i primi 4 anni non ho studiato altro che economia, i principi delle idee militari. Ho incontrato guerriglieri neri, George Big Jake Lewis e James Kerr, Torrey Gibson, Nolan e molti, molti altri. Abbiamo tentato di trasformare la mentalità del criminale afroamericano in una mentalità rivoluzionaria per la gente nera. A conseguenza di ciò, ognuno di noi è stato sottoposto alla più violenta reazione da parte dello Stato. Il tasso di mortalità di noi afro è quello che ti aspetteresti di trovare in una storia di Dachau. Il maiale che abbiamo assassinato stava sparando da 30 piedi sopra la nostra testa con un fucile militare. Eravamo in 3. La mancata comprensione del punto di vista radicale negli anni 60 ha portato al riformismo. In effetti, la maggior parte della sinistra ha completamente abbandonato qualsiasi tentativo di un equilibrio verso le voci più radicali, politicamente consapevoli, lasciando prosperare soltanto la visione ristretta del liberalismo. L'atteggiamento della sinistra verso COINTELPRO in particolare è un'illustrazione utile. COINTELPRO, il programma governativo segreto usato per smantellare il Black Panther Party e in seguito il movimento indiano-americano, è in genere citato da molti di sinistra come un esempio lampante della natura cospirativa del governo. Documenti desecretati e le testimonianze di ex agenti hanno dimostrato che COINTELPRO è una delle cellule più illegali e insidiose di governo nella storia della nazione. Tuttavia non è che un sintomo, un'entità sacrificabile, una piccola forza di polizia all'interno di una più grande, l'FBI, all'interno di un ramo di governo esecutivo che all'interno del governo stesso, una democrazia liberale, che poggia sul sistema economico capitalista. I riformisti nelle vesti dei radicali sostenevano inconsapevolmente una guerra ai sintomi piuttosto che alle radici del sistema trincerato. Eliminare COINTELPRO o persino l'FBI non altererebbe la struttura che produce strumenti e politiche di sorveglianza e di eliminazione. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the point from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. George Jackson è stato incarcerato apparentemente per aver rubato 70 dollari. Come disse lui stesso, da lumpen. Non faceva parte della normale forza di produzione di operai e contadini. Gli elementi lumpen in passato raramente comprendevano la società che li aveva vittimizzati e di poter compiere passi rivoluzionari organizzati all'interno di questa. In effetti, il termine proletariato, lumpen proletariat, era originariamente inteso per trasmettere l'inferiorità di questo settore sociale rispetto all'autentica classe operaia Eppure George Jackson, tagliato fuori dal sistema di produzione, si è educato dolorosamente dentro le sbarre della prigione come Malcolm X prima di lui, al punto in cui la sua chiara visione della realtà storica e contemporanea e la sua capacità di comunicare la sua prospettiva hanno spaventato la struttura del potere degli Stati Uniti tanto da liquidarlo fisicamente. La sua autoeducazione e la sua pubblicazione di Soledad Brother offrono una visione interessante del potenziale rivoluzionario della massa nera negli Stati Uniti. È stato assassinato perché stava facendo troppo per trasmettere questo atteggiamento ai compagni di prigionia. Non dovrebbe sorprendere, la vita dei neri costa poco. Quando è stato ucciso nell'agosto di quest'anno, George Jackson aveva 29 anni e aveva trascorso gli ultimi 15 anni in gabbia, 7 di questi in isolamento speciale. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hart, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. Sotto il capitalismo, il lavoratore veniva sfruttato attraverso l'alienazione di una parte del prodotto del suo lavoro. Per il contadino africano, lo sfruttamento viene effettuato attraverso la manipolazione del prezzo delle colture che ha lavorato per produrre. Tuttavia, il lavoro è sempre stato valutato più elevato della disoccupazione, per l'ovvia ragione che la sopravvivenza dipende dalla capacità di ottenere lavoro. Pertanto, all'inizio della storia dell'industrializzazione, hanno coniato lo slogan del diritto al lavoro. Le masse di neri negli Stati Uniti sono private di questo diritto fondamentale. Nella migliore delle ipotesi, vivono in un limbo di incertezze. Tra lavori occasionali, gli afroamericani sono gli ultimi ad essere assunti e i primi ad essere licenziati. La linea di demarcazione tra disoccupati o criminali non può essere ignorata, perché i lumpen bianchi nell'Europa capitalista sono respinti allo stesso modo. Questi ultimi erano considerati disadattati e i servizi igienici irregolari servivano da assistenza. I 30 milioni di neri negli Stati Uniti non sono disadattati, sono invece i più oppressi, i più minacciati per quanto riguarda la sopravvivenza. La grandezza di George Jackson è che è stato un portavoce dinamico per i più miserabili tra gli oppressi ed era all'avanguardia del fronte più pericoloso della lotta. La prigione non è certo un'arena in cui si potrebbe immaginare che si svolgerà la guerriglia. Tuttavia è su questo terreno più svantaggiato che i neri hanno mostrato il coraggio di scatenare una guerra per la dignità e la libertà. In Soledad Brothers, George Jackson rivela in modo toccante la natura di questa lotta mentre si è evoluta negli ultimi anni. Alcuni degli episodi più recenti della lotta nel carcere di San Quintino meritano di essere ricordati. Il 27 febbraio di quest'anno, prigionieri afro e messicani hanno annunciato la formazione di una coalizione del Terzo Mondo. Ciò è avvenuto sulla scia di organizzazioni come la Black Panther Branch a San Quintino e l'istituzione del SAIT, Self Advancement Through Education. Questo livello di mobilitazione dei prigionieri non bianchi è stato temuto dalle guardie bianche e da alcuni prigionieri razzisti. Questi ultimi si sono costituiti in un gruppo nazi autoproclamato. Seguirono mesi di violenti incidenti. Inutile dire che con l'autorità bianca dalla parte dei nazisti, i fratelli afro e messicani hanno avuto un momento molto difficile. George Jackson non è stato l'unica vittima, ma la loro unità è stata mantenuta e la maggioranza dei prigionieri bianchi ha rifiutato di sostenere i nazisti o li ha denunciati. Quindi, anche all'interno delle mura della prigione, il primo principio da osservare è l'unità della lotta, una volta che i più oppressi hanno preso l'iniziativa. La lotta all'interno delle carceri sta avendo ripercussioni sempre più ampie ogni giorno. In primo luogo, sta creando veri e propri quadri rivoluzionari da un numero sempre maggiore di lumpen. Ciò è particolarmente vero nelle carceri della California, ma il movimento sta facendo sentire il suo impatto ovunque, da Baltimora al Texas. I fratelli all'interno scrivono poesie, saggi, lettere che spogliano nuda l'America capitalista bianca. Ci chiamano antisociali e marchiano criminali, quando in realtà i criminali sono nel registro sociale, sono coloro che governano l'America. In secondo luogo, la lotta sta consolidando la comunità nera in modo straordinario. Anche i piccoli neri borghesi si sentono minacciati dalla polizia razzista, dai giudici e dagli ufficiali di prigione. Gli intellettuali neri, che erano completamente estranei a qualsiasi forma di lotta, tranne il loro trambusto personale, ora riconoscono la necessità di allearsi e orientarsi seguendo le forze di strada dei disoccupati neri, degli abitanti del ghetto e dei detenuti. In terzo luogo, il coraggio dei prigionieri ha suscitato una risposta dall'America bianca. i Weathermen, una piccola banda di rivoluzionari bianchi, ha preso una posizione vicina. Hanno denunciato l'omicidio di Jackson piazzando alcune bombe in determinati luoghi. Il Partito Comunista ha sostenuto la richiesta da parte dei prigionieri neri e del Partito della Pantera Nera di indagare sull'omicidio. Persino la stampa capitalista ha messo in mostra i massacri fascisti dei prigionieri neri nella prigione dell'Attica. Più in generale, l'America liberale bianca è stata disturbata. Quarto, e per i nostri scopi più significativo, gli sforzi dei prigionieri neri e dei neri in America nel loro insieme hanno avuto ripercussioni internazionali. Le accuse incriminate contro i leader della Pantera Nera e contro Angela Davis sono state denunciate in molte parti del mondo. Comitati di difesa e solidarietà sono stati costituiti fino a L'Avana e Lipsia. OPAL ha dichiarato il 18 agosto come il giorno della solidarietà internazionale con gli afroamericani e significativamente la maggior parte della loro propaganda a questo scopo si è conclusa con una chiamata a Free All Political Prisoners. È stato a lungo riconosciuto che la classe lavoratrice bianca negli Stati Uniti è storicamente incapace di partecipare come classe alla lotta antiimperialista. La solidarietà internazionale invece nasce dalla lotta in diverse località. Il razzismo bianco e il ruolo guida delle Americhe nell'imperialismo mondiale hanno trasformato il lavoro organizzato negli Stati Uniti in una forza reazionaria. Al contrario, la lotta nera è significativa a livello internazionale perché smaschera i barbari rapporti sociali del capitalismo e pone il nemico sulla difensiva nella propria terra natale. È ampiamente illustrato nel processo politico che ha coinvolto i tre fratelli Soledad. Keep a moving with that plow. Drive a man will show you how. Questo era un contributo del novembre 1971 di Walter Rodney, professore universitario, portava alla lotta anche attraverso ricerche rispetto allo sfruttamento coloniale europeo. In particolare proprio l'anno seguente alla morte di George Jackson, Rodney pubblicò le sue argomentazioni rispetto a come, mentre l'Europa si sviluppava attraverso l'Africa, allo stesso ritmo l'Africa veniva portata sotto sviluppo dall'Europa. Assassinato 9 anni dopo, fu attivista in Tanzania e in particolare nei Caraibi, dove quanto fosse importante la sua attività, anche se limitatamente intellettuale, è dimostrato dal fatto che nel 68 il primo ministro giamaicano lo dichiarò persona non grata e venne licenziato dall'università col divieto di ritornare in Giamaica. Portò in particolare gli studenti e gli abitanti di West Kingston a una rivolta nota come Rodney Riots, che causò 6 morti ma danni per milioni di dollari. Get to work and root that stump. Drive a man or make you jump. Better make your hammer ring. Drive a man or start to swing. Ain't but two things on my mind. Quando si parla di lavoro, oltre che di prigionia, in generale di limitazione delle libertà, non si può sorvolare sul colonialismo che ha permesso l'espandersi del sistema capitalista e del suo rafforzamento globale. Ma per non aprire altre 1000 parentesi ora, per motivi di tempo, mi trovo a dover stringere.